Prendere posto anche con noi, visto che sarà oggetto di disputazio, quindi esatto. Il volume, come sapete, è intitolato Il reddito di cittadinanza, una proposta per l'Italia e per l'Europa. Naturalmente questo accoppiamento Italia-Europa è essenziale nella prospettiva di Bronzini. È un libro sul basic income. Io non entrerò nei dettagli ovviamente di questo libro, perché devo soltanto dare pochi spunti introduttivi, e poi lo faranno molto meglio di me le relatrici e i relatori che mi seguiranno. È definito questo, diciamo, tema, cioè il tema del reddito di cittadinanza o del reddito garantito, il basic income, come un'utopia concreta, espressione basiana, cioè che risale proprio all'Elio Basso, perché è stato proprio Basso a parlare di utopia concreta. Direi che stando ai dati attuali, al quadrante europeo, non è affatto un'utopia, perché, come dice lo stesso autore, all'appello in Europa mancano soltanto 3 paesi, assieme al nostro, la Grecia e l'Ungheria. E sulla Grecia possiamo dire tante cose, sull'Ungheria stendiamo un velo pietoso, mi pare, no? Intanto. È legato a una tematica molto importante che, se volete, una tematica anche giuridica forte, di base, che viene introdotta da Bronzini con l'espressione ius existentiae, e naturalmente è una tematica che rimanda immediatamente a scelte politico-sociali e giuridiche che non possono essere soltanto scelte di un singolo paese, ma devono essere scelte dell'Unione Europea. Per farla molto breve, dirò che oggi nel quadro del mondo globalizzato e soprattutto alla luce della crisi nella quale ci troviamo, il reddito di cittadinanza significa strappare risorse. Ecco, cerco di operare dei termini molto drastici in modo tale da intenderci meglio. Strappare risorse alla rendita finanziaria, a un'economia che è diventata produzione di denaro a mezzo di denaro, non produzione di merce a mezzo di merce, come diceva il vecchio Sraffa, ma produzione di denaro a mezzo di denaro, e dove il profilo parassitario del capitale finanziario si palesa in tutta la sua evidenza. E il capitale finanziario rende noi, questo è uno degli aspetti che io trovo più suggestivi del libro, almeno in questo modo io l'ho letto e interpretato, rende tutti noi dei soggetti indebitati. Noi siamo tutti di fatto dei soggetti indebitati nel mondo occidentale, ma soggetti indebitati significa appendice del capitale globale e dunque ostaggi degli squilibri che si determinano all'interno del capitale globale. Con atroce candore il Presidente del Consiglio Mario Monti ieri da Fazio, non so se tutti l'avete visto o sentito, ha parlato con atroce candore di crisi di sistema, ha detto questa è una crisi di sistema, ma in qualche modo il libro assume questo orizzonte con grande coraggio e direi anche, come lo stesso Bronzini dice, con estrema radicalità. Se noi assumiamo questo orizzonte della crisi di sistema e dunque questo carattere parassitario del capitale finanziario oggi, che ci rende tutti soggetti indebitati, la terapia non può essere quella, e chi vi parla è un amante della Germania, anche se non è propriamente un germanofilo, ma la terapia non può essere l'ossessione teutonica per il pareggio di bilancio come esclusivo criterio, esclusivo parametro di valutazione dello stato di salute di un'economia. E questo è il dato fondamentale. Se noi adoperiamo questo esclusivo criterio, la salute diventa salute mortale. E diventa salute mortale se non innesca una dinamica sociale di inclusione e di cambiamento. E qui un riferimento molto, come dire, molto rapido a un aspetto di memoria storica. Ricordo che si cominciò a parlare di queste cose alla Fondazione Basso, era arrivato nel lontano 1977, quando era di moda parlare della crisi di Weimar, no? Qui con Gian Enrico Rosconi, con altri, e con Piero Ciocca della Banca d'Italia e altri. E vi è un mito qui che in qualche modo è un mito che permane ancora in Germania, che è una sorta di scena primaria della paura tedesca, e cioè l'idea che la crisi di Weimar sia stata indotta da crisi inflazionistica, nulla di più falso. Crisi inflazionistica in Germania c'è stata nel 1923 e non produsse assolutamente gli sconquassi che si diceva, e con questo chi vi parla non è affatto un sostenitore dell'inflazione, senza freni, ma la crisi weimariana fu indotta dalle politiche deflazionistiche degli ultimi governi della Repubblica, che determinarono una forma di stagnazione dell'economia e di conseguenza di disoccupazione generalizzata e di insicurezza diffusa, che venne utilizzata poi portando a stragrande maggioranza democratica il Partito Nazionalsocialista al governo del paese. Questi sono i dati storici. Allora, alla luce di quanto si è detto, il reddito di cittadinanza cosa può significare? Intanto può significare l'istituzione di una rendita sociale come alternativa alla rendita finanziaria. Rendita sociale contro rendita finanziaria, questo mi pare e se volete come base, qui naturalmente tocco appunto un aspetto che so essere una materia di controversia anche tra di noi, come base di quella che io chiamo un'istituzione del comune e quando parlo istituzione del comune sottolineo entrambi i termini, istituzione, non soltanto comune. Noi abbiamo bisogno di pensare un modo di organizzare la società con tante istituzioni e poche leggi e chiare, mentre oggi abbiamo esattamente il contrario. Non abbiamo istituzioni responsabilizzate, abbiamo una proliferazione di leggi, spesse volte non chiare, anzi in conflitto tra loro a volte. Dunque il reddito di cittadinanza, come viene presentato in questo libro di Papi Bronzini, è un invito a ripensare il modello sociale europeo. Se volete un modello di welfare, un modello anche oltre il welfare. Se volete però ripensare il modello sociale europeo al di là del paradigma della sicurezza, al di là dell'ossessione securitaria che in qualche modo ha caratterizzato finora larga parte non tutte, ma larga parte delle politiche dell'Unione. Andare oltre il paradigma securitario, il paradigma della sicurezza, significa collocare questa prospettiva nell'orizzonte di un paradigma nuovo. Potremmo chiamarlo il paradigma della qualità sociale, espressione adoperata tanti anni fa da Giorgio Ruffolo in un libro, come dire, a torto dimenticato. La prospettiva della qualità sociale, che significa la prospettiva della cura, della relazione, della creatività. Cura, relazione, creatività, e quando dico cura, relazione, creatività l'intendo come termini inclusivi del conflitto, perché il conflitto è anche un momento importante della relazione e della interattività. Occorre, in altri termini, questo è un po' l'implicazione forte che ho visto in questo libro, occorre pensare istituzioni del comune in grado di sottrarsi alla tenaglia Stato-privato, tra dimensione dello Stato e la dimensione del privato. Se volete, al di là della tenaglia Stato-mercato, ma io comincerei a bandire dal nostro lessico questo termine ideologico, che è il termine mercato. Non ci sono più mercati nel mondo globalizzato. È pura ideologia parlare di mercato o di mercati nel mondo globalizzato. Abbiamo poteri, per dirla con Luigi Ferraioli, poteri selvaggi che bloccano il potenziale interattivo delle relazioni sociali e dunque anche degli scambi sociali. Quindi mai come oggi il termine mercato dovrebbe essere oggetto di una radicale demistificazione. Il reddito di cittadinanza è il veicolo operativo di questa demistificazione. Questo era quanto io ho appreso da questo libro, nei cui dettagli, nella cui ricchezza di analisi e proposte non intendevo assolutamente entrare. Se non ci sono controindicazioni, seguirei l'ordine alfabetico. Se viceversa voi ritenete che l'ordine alfabetico vada violato perché è legato a un destino, al destino del nome, non ha una logica, una particolare logica, se non per gli eruditi che leggono soltanto le enciclopedie, non so, cosa vogliamo fare? Alternerei allora una relatrice e un relatore. Permettetemi, darei la parola a Fausta Guarriello. Quindi non stiamo seguendo affatto l'ordine alfabetico. A questo punto no. Va bene. Non ho avuto nessuna indicazione, non seguo l'ordine alfabetico. Vabbè, allora. Dunque, ma qualche parola per complimentarmi con Papi Bronzini per avere perseverato nel diffondere così la conoscenza del dibattito attorno al reddito di cittadinanza. Alcuni di noi già sono stati qua in questa stessa sede qualche tempo fa, un paio d'anni fa probabilmente, a discutere di questo stesso tema. E cosa è cambiato da allora? Allora, mi sembra, innanzitutto vorrei, per presentare il libro, dire due parole proprio riguardanti il libro e poi discutere un po' le idee contenute nel libro. Allora, intanto mi pare che il libro di Papi Bronzini costituisca una sintesi efficace delle ragioni che militano a favore del reddito di cittadinanza. Bronzini ricostruisce il dibattito filosofico alla base diciamo di questa idea, il dibattito anche dottrinale, e dà conto, pur sinteticamente ovviamente, delle pratiche sperimentate o in via di assestamento in diverse realtà a livello planetario. Ricordiamo il Brasile, ricordiamo l'Alaska, il Sudafrica, altre anche realtà extraeuropee molto significative che in questi anni hanno fatto avanzare l'idea del reddito di cittadinanza, inquadrando il tutto all'interno poi specificamente del dibattito europeo attorno alla necessità di prevedere in tutti gli Stati membri appunto un reddito di cittadinanza, un reddito, un basic income, un reddito di garanzia minimo, anche se poi confuta, contesta il fatto che debba essere minimo, e poi diremo per quale ragione, nell'ambito appunto delle raccomandazioni europee, delle raccomandazioni che sono state prodotte dalla Commissione europea in tempi anche abbastanza risalenti, la prima del 92, quindi non recentissima, l'altra più recente, e da risoluzioni del Parlamento europeo. E richiama appunto tutti quegli elementi che depongono a favore di un reddito di cittadinanza, anche dal punto di vista normativo, più propriamente normativo, che diciamo poi è lo specifico dell'approccio di Bronzini al tema. Sappiamo, facendo tutti parte del network, del Basic Income Network, che appunto ci sono economisti, fior fiore di economisti, di sociologi che lavorano su queste tematiche, diciamo che l'approccio prescelto da Bronzini è quello di carattere più squisitamente giuridico in realtà al tema. Quindi enumera così le fonti e soprattutto la colloca nel dibattito europeo in materia. Io trovo che dunque l'elemento, il pivot, il pilastro di riferimento è dato dalla Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 34 della Carta, che erige il diritto ad un reddito minimo di garanzia di cittadinanza come diritto sociale fondamentale. Ed è soprattutto attorno alla idea del diritto sociale fondamentale che Bronzini sviluppa tutta la sua argomentazione. Bisogna richiamare altresì il fatto che la necessità di un sostegno al reddito in una situazione che già era abbastanza grave un paio di anni fa, ma che è precipitata e si è ulteriormente aggravata negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, rende a questo punto assolutamente necessario e indispensabile un dibattito attorno alle prospettive concrete di questo reddito di cittadinanza. Come è stato detto, sintetizzato poco fa da Giacomo Marramau, appunto l'Italia si trova nella difficile situazione di essere, insieme alla Grecia e all'Ungheria, uno dei pochissimi paesi dell'Unione Europea a non disporre di un reddito di cittadinanza per i propri cittadini. Appunto l'Unione Europea ha sollecitato in più occasioni l'Italia ad adeguarsi appunto al quadro normativo europeo che impone, esige questa garanzia di reddito per tutti i cittadini come misura di inclusione sociale e di lotta all'esclusione sociale. A fronte dell'avanzare della povertà in Europa, i dati sono estremamente preoccupanti. Bronzini cita nel suo libro dati che riguardano l'Italia e dati che riguardano l'Europa, che segnalano come la questione della povertà o del rischio di povertà sia diventata sempre più drammatica. La povertà riguarda, come sappiamo tutti dai dati che vengono diffusi, riguardano non soltanto le persone prive di lavoro, non soltanto gli immigrati, non soltanto le famiglie monoparentali, le famiglie con molti minori a carico, ma riguardano gli stessi lavoratori, lavoratori che non sono in condizioni, attraverso il reddito, il salario percepito svolgendo un'attività lavorativa, di salire al di sopra della soglia di povertà. Quindi la povertà si sta diffondendo e una delle ragioni sulla quale il network che riguarda il Basic Income ha a lungo discusso è dovuta appunto alla crescente precarietà del lavoro. Uno dei fattori, diciamo, di massima crisi è dato proprio dal fatto della diffusione di lavori a carattere dequalificato, temporaneo, precario, eccetera, che quindi non consentono, pur a chi lavora, di poter salire al di sopra di quella soglia povertà. L'elemento fondamentale che Bronzini sottolinea in tutto il suo libro, diciamo il punto di riferimento essenziale, è dato dal fatto che alla base della necessità e dell'urgenza e anche delle modalità con le quali prevedere il reddito di cittadinanza, c'è l'esigenza fondamentale, il diritto fondamentale di tutela della dignità e della libertà della persona. Quindi la dignità come valore fondativo, sia diciamo come metavalore anche alla base della Carta dei diritti fondamentali, è l'elemento che permea tutto il discorso riguardo al reddito di cittadinanza, perché e che fa dire a Bronzini che il reddito di cittadinanza non dovrebbe più essere ancorato alla posizione lavorativa del soggetto, ma dovrebbe spettargli in quanto persona, persona che ha una dignità che deve essere rispettata, e questo è importante anche per le modalità con le quali questo reddito deve essere erogato e anche per il quantum da stabilire, che ovviamente dovrà tener conto di esigenze di carattere finanziario, immaginiamo tutti, vero? Ma che comunque deve essere stabilito al di sopra di quella soglia dei bisogni assolutamente essenziali per vivere, cioè il reddito di cittadinanza non deve soltanto assicurare la mera sopravvivenza materiale del soggetto e della sua famiglia, ma deve anche assicurare la soddisfazione di bisogni ulteriori, importanti, bisogni di carattere culturale, di una partecipazione attiva alla vita sociale, alla vita civica, eccetera. Un altro elemento importante nella filosofia di fondo che segnala Bronzini è quello, appunto, sempre nel disancorare dalla posizione di lavoratore, l'elemento della persona che deve godere di questo reddito di cittadinanza. Quindi il destinatario del reddito di cittadinanza è la persona in quanto tale, quindi non il lavoratore, non il capofamiglia, non chi ha la cura di altre persone, ma ciascuna persona, perché la libertà e la dignità è un bene che spetta a ciascuna persona e che deve essere in quanto tale tutelato a prescindere dalla disponibilità a lavorare, dal fatto di essere disoccupato, inoccupato, alla ricerca di un primo impiego o inabile al lavoro. Allora, è qui che secondo me, proprio perché siamo in una situazione che si è acuita ulteriormente ed è diventata più drammatica, ma altresì qualche segnale positivo è dato dal fatto che il nuovo governo, in particolare il nuovo ministro del welfare, si è detta almeno personalmente più disponibile ad affrontare questa tematica, nonché per il fatto che una volta tanto possiamo dire ce lo chiede l'Europa, ed è davvero così, ce lo chiede l'Europa da molto tempo, di stabilire una forma di tutela del reddito, di un reddito garantito per tutti i cittadini. A questo punto io credo invece che mentre mi appaiono assolutamente condivisibili le ragioni di fondo che Bronzini sostiene nel suo libro a favore di una idea, insomma, pura del reddito di cittadinanza, poi sarà necessario affrontare numerosi compromessi per immaginare di realizzare effettivamente questo diritto. In particolare, da laburista, devo dire, come dissi già 2 anni fa, che ho qualche difficoltà ad accettare poi sul piano concreto lo sganciamento completo del reddito di cittadinanza dalla disponibilità a lavorare, da una qualche condizionalità. Bronzini, d'altro canto, mi pare accetti comunque questo compromesso, cioè c'è una prima parte del libro in cui richiama le ragioni a favore di una incondizionalità del reddito di cittadinanza legato alla persona, a prescindere dalla sua posizione lavorativa, anche per le disastrose derive, no, clientelari, burocratiche, eccetera, a cui danno luogo invece, da luogo l'erogazione di un reddito minimo legato alla posizione di lavoro. Ma d'altro canto poi mi sembra che in una parte, insomma, in una fase un po' più avanzata del suo discorso, accetta sul piano pragmatico, sia pure sul piano pragmatico, che invece delle condizioni possano essere poste, che possa esserci una qualche valutazione della situazione di bisogno, di necessità delle persone, mentre, diciamo, nell'idea pura si prescinde assolutamente dalla situazione di bisogno, quindi i destinatari del reddito di cittadinanza sarebbero tutti i cittadini, e poi cittadini, non i cittadini nel senso classico, ma chi risiede in un certo territorio, no? Quindi a prescindere dal fatto che sia ricco, povero, benestante, che abbia delle rendite, che lavori già in maniera professionale, eccetera. Questo per assicurare, ecco. Poi, diciamo, dal punto di vista concreto invece, cioè, si accetta che comunque ci siano necessariamente dei limiti, dei vincoli dovuti sia alle risorse da spendere, da utilizzare appunto a questo fine, ma anche per fare partire questa macchina, no? E quindi mi sembra che ritorni un po' che il tema si saldi col discorso quanto mai attuale di una ricerca di una universalità delle prestazioni che riguardano appunto le condizioni di bisogno delle persone, non soltanto con riguardo alla loro posizione lavorativa, quindi alla perdita dell'impiego, quindi gli ammortizzatori sociali, l'indennità di disoccupazione, eccetera, ma anche appunto la questione più ampia, più generale di come rimediare alle situazioni di povertà o di estrema povertà, anche attraverso appunto erogazioni di carattere sia monetario, non necessariamente di carattere riparatorio, come viene detto, e sia attraverso l'erogazione di servizi qualificati, una agevolazione nelle tariffe dei servizi pubblici, servizi di qualità, eccetera. Quindi a me sembra che questo sia il piano del discorso più concreto sul quale sia possibile effettivamente in questo momento specifico provare almeno ad influire sulle misure che il governo si accinge ad adottare. Sapendo appunto che ci saranno probabilmente molte limitazioni, ma che insomma c'è anche la stringente necessità di trovare una soluzione a carattere universalistico contro le situazioni di bisogno e di rischio di esclusione sociale, non solo perché ce lo chiede l'Europa, ma appunto per consentire anche all'economia complessiva del paese di poter mettere tutte le persone nella posizione di, come viene detto, attingendo, suppongo, alla filosofia di Amartya Sen, questa fioritura umana, no? La possibilità di godere di opportunità di sviluppo e di fare delle scelte in piena libertà, di potere quindi di avere i mezzi per poter scegliere liberamente quali sono le vie attraverso le quali le persone intendono sviluppare le proprie potenzialità, le proprie inclinazioni, i propri interessi. Quindi, ecco, il punto sul quale io ho un minimo di disaccordo con Bronzini è proprio il superamento della prospettiva della Costituzione italiana laburistica. Papi critica ad un certo punto il fondamento costituzionale del lavoro lavoristico. Appunto il lavoro come cerniera, come fattore di mediazione tra la cittadinanza astratta e poi la cittadinanza sociale, la cittadinanza concreta. Io credo che se noi parliamo del lavoro non nel senso del lavoro salariato, come storicamente si è affermato nel secolo del lavoro, ma nelle molteplici e varie accezioni in cui l'attività umana può essere erogata, forse possiamo ancora considerare la prospettiva del lavoro come una prospettiva utile da indagare, nel senso appunto come attività umana. Ricordiamo il 35 della Costituzione che dice la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme, no? E quindi non necessariamente come lavoro subordinato, come lavoro salariato. D'altro canto, ecco, appunto qui mi pare che anche Giacomo avesse fatto un cenno a questo, appunto un reddito di cittadinanza adeguato e non minimo, come segnala Bronzini, ma come segnala l'Unione Europea, no? Nelle sue raccomandazioni, un reddito adeguato a sviluppare le potenzialità della persona consentirebbe anche di liberare una serie di risorse sul piano relazionale, sul piano appunto del lavoro di cura, come si è detto, consentirebbe appunto l'emancipazione finalmente anche delle donne, delle tante donne che ancora sono non sono sul mercato del lavoro perché sono disincentivate a presentarsi e sul mercato del lavoro, data la penuria di occasioni di lavoro o la povertà dei lavori che vengono resi disponibili. Così come accetto di buon grado la critica che rivolge Bronzini alla condizionalità come attualmente è posta dalle normative, ancora scarne in Italia per la verità, perché l'Italia è arrivata anche qua da buon ultima su queste misure di attivazione al lavoro. Sappiamo che i servizi per l'impiego non sono propriamente in Europa tra i migliori, non sono di quelli che seguono in maniera individuale i soggetti, che sono in grado di orientare, di fare proposte di lavori adeguati rispetto al lavoro perso o al lavoro cercato dalla persona, ricercato dalla persona. Quindi una più corretta condizionalità e anche però un ventaglio di scelte molto ampio, come occasioni formative per esempio, e anche come occasioni di lavoro associativo, di altre forme di lavoro, sicuramente potrebbe mantenere questo rapporto ancora tra lavoro e reddito di cittadinanza, che invece nella prospettiva pura tenderebbe ad annullarsi o a sparire. L'ultimo punto, ultimissimissimo, mi sembra che i soggetti che più di ogni altro abbisognino di un adattamento di questo reddito di cittadinanza proprio in vista di coltivare e di investire su prospettive future, prospettive e progetti di vita sono i giovani, che sono i più penalizzati nella realtà attuale. Abbiamo visto i dati recentissimi dell'Istat, il 30,1% dei giovani sono senza lavoro, sono disoccupati, 2 milioni di giovani in Italia non studiano né lavorano. Quindi è soprattutto un adattamento di questo reddito di cittadinanza ai progetti di vita dei giovani che penso richieda uno sforzo notevole da parte appunto non soltanto del legislatore italiano, ma anche nel quadro europeo, appunto come forma, secondo raccogliendo la proposta che aveva fatto Ferrera, come forma di risocializzazione, no, del sistema di welfare, del modello sociale europeo e come forma di sottolineatura della cittadinanza sociale europea, di legame forte, di vincolo forte tra i cittadini e l'Unione Europea, che peraltro invece conosciamo soltanto per altre ragioni di carattere più biecamente economico e che invece potrebbero in questa situazione dare un segnale molto più forte di appartenenza ai suoi cittadini. Bene. Bene, grazie Fausta. La parola a Virgilio D'Astoli. Grazie, anch'io ho fatto parte del primo panel di 2 anni fa per la presentazione di un libro sullo stesso tema e vale la pena effettivamente, tenuto conto di questi 2 anni che sono passati, la lettura di questo libro è anche stato un elemento di riflessione per cercare di capire in questi 2 anni in che misura sono stati fatti dei passi in avanti, non solo in Italia, ma in che misura sono stati fatti dei passi in avanti anche a livello europeo su questa tematica, in che misura invece, questa è la mia opinione, questi 2 anni ci hanno messo in una situazione più complicata, per usare un understatement, diciamo. E quindi questo tema deve essere inserito, non per sfuggire al tema, ma nel quadro più ampio di una riflessione sulle misure che l'Europa può e deve prendere per affrontare queste questioni, di cui ha già parlato Fausta, e che danno in parte anche una risposta, non per entrare in polemica con Fausta, danno anche in parte una risposta alla questione dell'alternativa, se questo reddito deve essere legato o meno alla dimensione del lavoro o meno, cioè il fatto, giustamente come dicevi te, che oggi noi abbiamo un livello di disoccupazione giovanile molto elevato, la maggior parte di questi giovani non hanno mai avuto un lavoro, oltre appunto al livello crescente di povertà che c'è in Europa, mi pare che stiamo intorno agli 87 milioni di poveri, in una situazione in cui in maniera abbastanza, come posso dire, interessante, se così posso dire, il numero di poveri sta decrescendo in altre aree del mondo, mentre sta crescendo in Europa. E allora questo ci deve spingere appunto a fare una serie di riflessioni. Il libro di oggi ci pone una serie di domande sulle quali vale la pena di riflettere. La prima domanda, che è proprio la prima frase del libro, quando fa riferimento a Martha Sen, che le democrazie soffrono raramente di carestie. Allora, se noi per carestie consideriamo il tema delle rarità o delle rarefazioni dei beni pubblici, oggi noi siamo in una situazione in cui purtroppo le democrazie, in quanto tali di per sé, non sono in grado di oggi dare una soluzione al problema della rarefazione dei beni pubblici. Noi oggi viviamo in una situazione in cui in Europa i beni pubblici che debbono essere garantiti dalle democrazie si sono rarefatti e si stanno rarefacendo, e le democrazie europee, l'insieme delle democrazie dei nostri paesi, non hanno trovato ancora una soluzione per dare una risposta al problema della rarefazione dei beni pubblici. Allora, se carestia deve essere intesa in questo senso, e deve essere intesa in questo senso, l'analisi che Martha Sen ha fatto in altre epoche è un'analisi che non si scontra con una realtà che è cambiata sostanzialmente. E allora la prima domanda da farci è appunto se bastano le democrazie formali, diciamo, per garantire delle risposte a garantire appunto i beni pubblici di cui noi abbiamo bisogno. E questo non lo è così. E la seconda domanda è relativa all'attualità europea, cioè se l'insieme delle democrazie europee stanno affrontando questa questione della rarefazione dei beni pubblici con metodi, strumenti e politiche adeguate per dare una risposta a un problema che non è soltanto italiano ma che è europeo. La mia opinione è che non è così, anzi io voglio approfittare dell'occasione di questo incontro di oggi per esprimere la mia forte preoccupazione dell'indirizzo, non è soltanto la Germania della Merkel, ma che è l'indirizzo nella quale sta andando l'Europa, che è una cosa drammatica, perché la cecità di fronte alla quale noi ci stiamo trovando e che mette insieme l'insieme dei governi, ivi compreso, fatemelo dire, il governo italiano, e l'insieme delle istituzioni europee, ivi compreso il Parlamento europeo, partendo dal presupposto che alla crisi nella quale noi stiamo vivendo, che è la crisi che è nata praticamente 4 anni fa, si dà la risposta esclusivamente attraverso la questione della disciplina di bilancio e dell'austerità, questa non è soltanto un errore dal punto di vista economico, ma è un errore dal punto di vista politico. Ed è un errore che pone anche un problema di dumping di democrazia sostanzialmente, perché ci sono dei paesi che si trovano in una situazione in cui le loro democrazie potrebbero essere in grado di far fronte a questi problemi, ci sono delle democrazie che invece non sono incapaci di far fronte a questi problemi. E allora il fatto che con una grande cecità ci si sta muovendo tutti insieme intorno a questo obiettivo che ha questo titolo, come posso dire, sarcastico, involontariamente sarcastico. Il trattato internazionale di cui si sta discutendo in questi giorni, che si sta discutendo in maniera involontariamente sarcastica, è stato chiamato il trattato per rafforzare l'unione economica. E andando a leggere quello che si sta preparando a livello europeo, tutto è fuorché il rafforzamento dell'unione economica, è soltanto uno strumento che deve mettere sotto controllo in qualche modo i bilanci nazionali, eliminando qualunque elemento di flessibilità da questo punto di vista. È evidente che tutto questo toglie agli stati gli strumenti per dare una risposta ai problemi che sono indicati in questo libro. Allora io credo che di fronte a questo noi dobbiamo fare una denuncia forte, la più alta possibile, che non è questa la strada che deve essere intrapresa. E questo è strettamente collegato alle tematiche che sono state poste nel libro. La terza questione, che è collegata anche un po' alle questioni che sollevava Fausta, è che noi oggi troviamo di fronte a una società, quando parlavo prima della rarefazione dei beni pubblici, in cui noi dobbiamo trovare degli strumenti, come si è detto varie volte, per rendere la nostra società più inclusiva. Allora, rendere la nostra società più inclusiva significa garantire all'insieme dei cittadini dei beni che oggi gli stati nazionali non sono in grado di garantire. E quindi lo strumento del reddito, come dice giustamente anche nel libro più volte Papi, non è legato soltanto alla concessione finanziaria di un contributo, giustamente poi Papi dice che non bisogna parlare di reddito minimo, ma bisogna parlare di reddito adeguato, ma deve essere visto in un quadro più ampio, che riguarda l'insieme delle politiche che devono essere adottate dagli Stati e che consentono appunto di garantire una società inclusiva. E questa società inclusiva quindi non riguarda soltanto i lavoratori, ma riguarda l'insieme dei cittadini. E il quarto questione è poi la questione della cittadinanza, cioè se la cittadinanza è soltanto dei cittadini dell'Unione Europea, come giustamente dice e ricorda Papi, la Carta dei diritti garantisce questi diritti a qualunque persona sta sul territorio dell'Unione, salvo i diritti, parte dei diritti civili e politici, ma l'insieme dei diritti che vengono garantiti dalla Carta dei diritti riguardano qualunque persona sta sul territorio dell'Unione. E quindi questo insieme di politiche che garantiscono la società inclusiva. E in queste politiche ci sono degli aspetti sui quali vale la pena di attirare l'attenzione, che riguardano per esempio in particolare le tre questioni fondamentali che riguardano la possibilità di vivere un livello di vita dignitosa a tutti quanti, che sono: uno, la questione della salute; il secondo è quello dell'educazione; e il terzo è quello di un alloggio dignitoso. Cercando di declinarle, per quanto riguarda la salute, il problema che deve essere garantito dalla nostra società non è la lotta contro le malattie, certo anche la lotta contro le malattie, ma in primo luogo è una battaglia, una politica comune per garantire la salute, che viene prima della battaglia contro le malattie. E questa è una prima questione di cui le nostre società devono farsi carico. Il secondo è quello dell'educazione, come dicevo, e il terzo è quello di un alloggio dignitoso. E allora, da questo punto di vista, ha ragione Papi quando ci dice che il tema del reddito deve essere solo il quadro di queste politiche. Primo, come razionalizzazione delle politiche, perché attraverso la razionalizzazione delle politiche si possono anche evitare degli sprechi. E quindi questo vuol dire che si spende meno di quanto si dovrebbe spendere nel momento in cui si razionalizzano le politiche. Secondo, il fatto di metterlo in un insieme di politiche in qualche modo crea delle sinergie, quindi accanto al reddito garantito si possono garantire altre cose. Però tutto questo richiede delle politiche dell'Unione, che oggi non esistono ancora. Ed è la ragione per cui noi dobbiamo essere fortemente preoccupati da una linea che sta emergendo a livello europeo, che va esattamente nella direzione contraria rispetto a quello che deve essere fatto. E allora da qui ne discende anche una riflessione su che cosa noi possiamo fare e quali strumenti noi possiamo utilizzare. Papi fa riferimento all'iniziativa che è prevista nel Trattato di Lisbona, all'articolo 11, paragrafo 4, cioè quello della possibilità che un milione di cittadini possa raccogliere delle firme, appunto presentare le firme per chiedere alla Commissione di avanzare in questa direzione. Io ritengo che questo può essere uno strumento, Papi addirittura lo considera uno strumento rivoluzionario. Io sono più prudente, nel senso che è quasi rivoluzionario, sono più prudente nel senso che non è un'iniziativa legislativa dei cittadini, cioè un percorso a ostacoli. Intanto spero bene che il ministro Cancellieri copra un'assenza di iniziativa da parte del suo predecessore Maroni, nel senso che l'Italia adotti i regolamenti necessari perché a partire dal 1 aprile anche in Italia si possano raccogliere le firme, perché ancora nulla è stato fatto da questo punto di vista. Però poi anche il fatto di raccogliere le firme e poi fra un anno, cioè nel 2013, depositarle sul tavolo della Commissione, non vuol dire che da questo noi ne saremo usciti e che avremo un atto legislativo da parte della Commissione che ci consenta di dare una soluzione al tema che pone il libro. Certo, servono anche altre cose. Intanto io sono convinto che noi dobbiamo aspettarci un'assunzione di responsabilità da parte del Parlamento europeo. Paolo Bronzini ha ricordato giustamente le due risoluzioni che sono state adottate dal Parlamento europeo, una quella della Commissione sulle sfide e l'altra la Commissione sulla crisi, però queste risoluzioni debbono essere poi tradotte in atti politici precisi, cioè il Parlamento europeo oggi ha gli strumenti per ottenere da parte della Commissione e per ottenere da parte del Consiglio di andare in una certa direzione. Invece anche il Parlamento europeo nel dibattito che è nato in queste settimane si è in qualche modo infilato in questo vicolo stretto che è quello della disciplina di bilancio e dell'austerità, immaginando e credendo, illudendosi che apportando degli emendamenti, fatemelo dire, al trattato internazionale, attraverso questo trattato internazionale si possa garantire la crescita e lo sviluppo. È un'illusione questa, perché la crescita e lo sviluppo si può garantire soltanto attraverso politiche comuni, non attraverso un trattato internazionale. E allora c'è una prima questione di assunzione di responsabilità da parte del Parlamento europeo. Ultima questione sulla quale vorrei attirare la vostra attenzione, correggendo forse in parte il titolo del nostro incontro, dove si dice una proposta per l'Italia e per l'Europa. Io direi che oggi l'Italia ha acquisito una credibilità e un'autorevolezza in Europa, in cui si potrebbe anche dire una proposta dell'Italia per l'Europa. Cioè, io mi chiedo in che misura e in che termine, me lo aspetto in qualche modo, in questo nuovo attivismo, giusto, opportuno attivismo del governo italiano nella dimensione europea, le iniziative che sono state assunte in queste settimane per evitare che emergano delle misure che sono dannose per quanto riguarda il nostro Paese, non debbono essere accompagnate anche da un'iniziativa forte dell'Italia, così come l'Italia è stata capace di fare in passato, in modo tale che l'Italia non soltanto sia protagonista in Europa, ma che di fronte in qualche modo alla miopia e alla mancanza di leadership da parte di altri Paesi, che l'Italia si assuma la responsabilità di fare su questo una risposta, di presentare per questo una risposta e una proposta a livello europeo. E allora io suggerisco in qualche modo che il titolo di stasera venga cambiato, una proposta dell'Italia per l'Europa, perché il tema che pone giustamente Papi nel suo libro è un tema di carattere europeo. Giustamente Papi pone la domanda: qual è l'interesse del demos europeo, no, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza? E ci dà delle risposte. Ci dà risposte molto precise, anche quando si dice ci sono soltanto tre paesi, l'Italia, la Grecia e l'Ungheria, che non hanno questi strumenti. Ma giustamente Papi ci spiega le ragioni per cui questo è un tema che deve essere posto in una dimensione europea e quindi va al di là dei tre paesi che mancano di questo strumento. E allora forse da questa discussione, da questo libro, dove ci sono una serie di elementi che non sono soltanto di carattere giuridico ma sono anche di riflessione politica nel suo insieme, forse varrebbe la pena di fare appunto una riflessione più ampia, nel senso di dire da parte dell'Italia quali possono essere le iniziative che possono emergere perché questa tematica possa essere posta con maggior concretezza sul tavolo delle istituzioni europee. Grazie. Una considerazione rapidissima: una proposta per l'Italia e per l'Europa non è il titolo di questo nostro incontro, ma il sottotitolo del libro di Papi. Ma poi io spero anche che un giorno l'Europa dica: dobbiamo fare così, ce lo dice l'Italia, magari speriamo. Qui la parola a Rachele. Ci sono vari posti, non può sedersi. Rachele Serino. Ecco. Sì, allora io intanto ringrazio anche Virgilio D'Astoli per questa ultima provocazione, sì, perché in questi ultimi mesi in cui, come dire, l'uscita delle prime settimane di dicembre della Fornero sul reddito garantito aveva creato così grande ispirazione, quasi emozione, rispetto a un tema che eravamo abituati, noi vecchi ossessivi, no? Il reddito di cittadinanza, il reddito a essere percepiti come dei pedagoghi instancabili, vedercelo su tutte le prime pagine dei giornali veramente ci ha dato una piccola emozione, quasi quasi forse ce la stiamo per fare, perché finalmente ci sembrava di trovarci di fronte un governo di competenti, un governo che conosceva queste misure, che aveva perfettamente idea di quali fossero le indicazioni della Comunità Europea, perché parte integrante del processo democratico europeo. Quindi questa prima sensazione di entusiasmo, e quindi ci stava benissimo il suggerimento di Pier Virgilio D'Astoli, l'Italia che propone, no? Che riassorbe un nuovo ruolo anche a fronte di un'esperienza che non ha mai avuto, ma sulla quale ha tanto dibattuto, ha tanto discusso, ha tanto riflettuto, e che forse, proprio perché non l'ha mai sperimentata, potrebbe anche pensare di proporla in una chiave diversa, forse anche migliorativa rispetto a quelle che sono le politiche di workfare che negli ultimi anni i paesi europei hanno messo in atto, e quindi più restrittive rispetto a ciò che era invece alla base delle grandi socialdemocrazie europee fino agli anni Ottanta. Poi però, dopo il primo ripensamento della Fornero, la quale credo invece sia personalmente intimamente convinta che questa è una misura che va bene, però insomma, politicamente, esternamente, non ci sono più stati messaggi, anzi forse di nuovo un po' di paura, qualche passo indietro. E quindi di nuovo noi ossessivi, e in questo includo anche Papi ovviamente, che è all'ennesimo libro su questo argomento, perché evidentemente tenacemente si tenta, e l'avventura del BIN in questo ci accomuna, ossessivamente si tenta e si tenterà fin tanto che qualcosa non succederà. Però insomma, questa ritrazione, questo tornare indietro di nuovo della Fornero non ci può fare invece nascondere quella che è l'altra grande preoccupazione, cioè che in qualche modo qualcuna di queste condizioni ancora non sia maturata all'interno di questo paese. Perché le lacerazioni che sono sul campo sono così evidenti, lo diceva anche Fausta Guarriello prima, ci si trova a scadenze quasi ormai fisse, a parlare e a discutere di quelli che possono essere interventi e che in qualche modo colgano il grande sfacelo che c'è in Italia rispetto al mercato del lavoro, rispetto a un lavoro che è povero ormai, anche quando c'è, quando non c'è è miserevole. Eppure questo argomento che ciclicamente torna oggi ci mette di fronte a una condizione in cui le carte in tavola sono effettivamente evidenti a tutti. 2 anni fa questo stesso argomento, le stesse proposte che Papi fa nel suo libro e che secondo me ha il merito di fare in questo libro in una maniera sintetica, in una maniera diretta, senza troppi fronzoli, senza dover rintracciare troppe giustificazioni all'argomentazione del reddito di cittadinanza, e quindi in qualche modo così, con franchezza, con schiettezza, con estrema semplicità e linearità, tirando fuori quelli che sono gli elementi forti alla base di questa proposta. E infatti lui nel suo libro i primi 2 capitoli li associa al reddito di cittadinanza e le basi del gioco democratico, e ancora reddito di cittadinanza, lavoro e libertà. Associa democrazia e libertà a questa proposta, perché effettivamente è capace, ha in nuce una serie di chance verso una società che in qualche modo si vuole ripensare, si vuole proporre, si vuole pensare e vedere anche più ricca. Ma torno, faccio un passo indietro rispetto a quello che volevo dire, quindi a quella che è la preoccupazione. Il fate presto che lanciò la Marcegaglia in qualche modo è stato raccolto, no? Non abbiamo più Berlusconi, abbiamo il governo Monti. Da quel punto di vista sicuramente alcuni richiami verranno accolti. Noi abbiamo un richiamo molto simile, ma che è ancora più forte, più violento. Facciamo prestissimo, perché non c'è più tempo. Il tempo è passato, l'Europa ci richiama da anni, questa società sta effettivamente cominciando a perdere. Le persone, gli uomini e le donne che ne fanno parte, stanno cominciando a perdere la loro capacità di esistere all'interno di un contesto sociale comune, comunitario. In che senso? Nel senso che in qualche modo, e questo ce lo insegnano tutti gli psicologi e tutti i ricercatori sociali, più grande è la povertà, maggiore è il senso di oppressione o schiavitù, come diceva anche Marramao prima, minore sono le possibilità e le capacità di riscatto, minori sono le possibilità e la capacità di mettere in atto un'alternativa, una qualunque reazione. Questa è una società che sta effettivamente cominciando a prendere troppe sberle. Gli uomini e le donne, i giovani, si continua a parlare dei giovani, ma io direi, credo, anzi, che in realtà ormai anche questo possa essere assunto, così come fa Papi velocemente su Radio Cittadinanza, possiamo anche assumere che la precarietà è un fattore trasversale, che forse la disoccupazione colpisce i giovani tanto quanto colpisce un ultra cinquantenne o una donna sopra i 45 anni. È un dato di fatto. 2 anni fa questo forse l'avremmo detto e con meno purtroppo convinzione e dati. Oggi non possiamo più fare a meno di riconoscerlo come un elemento esistente sul nostro tavolo. Precarietà trasversale, disoccupazione trasversale, impossibilità di produrre progetti personali o impossibilità anche di continuare i propri progetti. Spesso si dice che questi giovani non hanno futuro. No, attenzione, questi giovani vedono esattamente che tipo di futuro hanno davanti e semplicemente non gli piace. E questo è ciò che accade anche alle persone che in qualche modo non più giovani si cominciano però a rendere conto di quella che è di quello che significa materialmente l'assenza di una misura come il reddito di cittadinanza. Credo che uno dei grandi lavori che il Basic Income Network ha cercato di portare avanti in questi anni, in cui, ripeto, ossessivamente ovunque cerchiamo di discutere di reddito, uno dei grandi lavori che abbiamo portato avanti però è stato quello anche di far uscire, di tentare di far uscire questa proposta soltanto dall'alveo economico o giuridico, perché in realtà ha delle ripercussioni ovviamente come l'economia sulla vita e il diritto sulla regolazione della vita sociale, però ha delle ripercussioni profonde, no? Anche molto soggettive rispetto a quella che è una compagine sociale. E allora facciamo prestissimo perché, e io anche in questo senso percepisco la brevità e la velocità con cui Papi vuole dare, no, queste informazioni, vuole mettere in un libro che poi non è da lui, perché poi invece di solito una volta tanto allora, e invece va veloce perché la Marcegaglia ha fatto presto, nel senso, e questa è forse anche un'indicazione che sottotraccia questo libro ci vuole dare, no? Facciamo prestissimo, ci sono tutti gli strumenti a disposizione, ci sono i dati oggettivi, si capisce, quindi si può effettivamente cominciare a capire quelle che possono essere anche in termini se vogliamo concreti, conti ne sono stati fatti. Non si può dire che sia una misura, come diceva un articolo sul Corriere della Sera ieri, una misura a costo zero, però anzi io la butto là, è una misura che costa anche poco, perché quanto costa quella salute che porta alla morte, no? Quanto ci costa in una visione che anche soltanto in medio periodo ci fa intuire quali sono i disastri a cui stiamo andando incontro. Se quindi l'economia ci deve aiutare e i calcoli ci devono aiutare a capire costi e benefici, allora a questo punto 20 miliardi per una misura come questa, universale, in Italia, forse è anche molto poco, è un grande vantaggio rispetto a un paese che rischia di perdere centinaia di miliardi di euro nei prossimi anni, non soltanto dal punto di vista economico, perché i costi sociali di questa crisi sono anche costi personali, sono anche costi in salute, diceva prima Virgilio D'Astri, sono anche costi in fasci economici che hanno a che fare con le politiche dell'abitare, la perdita di ricchezza delle nostre famiglie o comunque delle persone. E quindi forse il reddito, dobbiamo cominciare anche a dircelo, costa poco. Anzi, è tutto un vantaggio, è tutto un vantaggio se ce lo mettiamo in una misura previsionale, no? E quindi abbiamo eliminato anche un'altra questione. E soprattutto è un vantaggio perché apre questa società e questo paese che in qualche modo, ripeto, noi ossessivi in fondo abbiamo due visioni. Una, ci piacerebbe tanto diventare un paese normale che, come tutte le democrazie europee, riesce anche a pensare che di fidarsi dei propri cittadini e che forse se i nostri amici, parenti, colleghi recepissero anche loro e anche noi una misura come questa, non ci sarebbe per forza necessariamente il sotterfugio. Questo è l'altro grande problema, l'altro tappo che sta sopra questa misura. E invece perché no? No? In momenti di grande crisi c'è bisogno di una ripartenza. Se è una crisi di sistema, e ne siamo tutti convinti, e se ce lo certifica Monti, mi sa che è proprio così. Mi sa che è proprio così. Allora a questo punto una crisi di sistema ci deve dare l'occasione di non guardare al nostro futuro con gli stessi occhi che hanno in qualche modo condotto a questa crisi. I paradigmi forse sono diversi, i paradigmi forse sono saltati, non hanno funzionato perfettamente e quindi riproporli forse non ci aiuta a capire qual è la nuova possibilità che abbiamo di fronte. Eppure in questo paese oggi parlare di reddito garantito non è più un tabù. Dentro le case di ciascuno il rischio materiale della perdita di potere d'acquisto, della perdita di progettazione, della perdita di lavoro è entrato drammaticamente, o perché ciascuno lo vive in prima persona o perché qualcuno che ti è molto vicino ha questo problema. Per cui oggi è molto più intuitivo fare una proposta come questa e dall'intuizione, siccome all'intuizione noi possiamo collegare la ragione delle scienze sociali, ma anche la ragione dell'economia, ma anche la ragione di una proposta politica che vuole ridare gambe e aria a una ripartenza che sa di nuovo sviluppo, perché forse crescita e sviluppo sono anche due parole che oggi vengono allo stesso modo ripensate, no? Quale crescita, quale sviluppo? Crescere producendo cosa, sviluppare nuovi sistemi di vita sociale, questo sicuramente è un'altra indicazione che sta avvenendo. Per cui questi grandi cambiamenti accompagnano, danno una porta preferenziale al reddito cittadinanza come base per poter accedere a delle altre trasformazioni assolutamente tutte da verificare, ma potenzialmente molto positive. Però questa è una preoccupazione, perché ad oggi tutto ciò esiste, ma ancora non c'è con forza una proposta come questa nelle sedi istituzionali. È per questo che noi ossessivi accogliamo per esempio l'ICE che si presenterà alla Commissione europea, al Parlamento europeo, con forza, con la forza della positività che ha Papi, per cui è quasi una rivoluzione, la determinazione di chi farebbe qualunque cosa purché finalmente si arrivi a questa misura, quindi con un po' di laicità anche, però questa è una cosa per la quale evidentemente come BIN ci faremo ancora sentire, cercheremo di essere presenti ovunque, perché è da aprile di quest'anno che si potranno cominciare, correggimi se sbaglio, da aprile di quest'anno che si potranno cominciare a raccogliere. Se gli stati accoglieranno i regolamenti, da aprile di quest'anno si potranno cominciare a raccogliere le firme. Questo milione di firme è soltanto un segnale. Noi ci auguriamo che accada qualcosa anche molto prima, però quello sarebbe intanto un segnale molto importante per far arrivare, per dare una giusta rappresentazione a un tema che è volutamente nascosto, perché in realtà c'è il terreno, c'è il tessuto e ci sono anche le risorse, indubbiamente. Bene, grazie a Raffaele Scirino. Vedo che stiamo allestendo un governo ombra quasi. Ora la parola a Luigi Ferraioli. Sì, mi pare che questo libro sia uscito proprio nel momento più opportuno e più giusto, proprio perché stiamo vivendo, come diceva adesso Rachele Serino, una crisi di sistema che richiede una rifondazione. Il libro di Papi muove da un nesso tra il salario di cittadinanza, il reddito basic income e la democrazia. Noi stiamo vivendo una crisi radicale della democrazia. La crisi economica, lo diceva Giacomo Arramao, equivale ad un primato non dei mercati, espressione che non si sa che cosa significhi, ma dei poteri, per l'appunto, della finanza, che governano praticamente l'Europa e l'Occidente, a un sovvertimento del rapporto tra politica ed economia. Non abbiamo più un governo politico dell'economia, ma un governo economico della politica. Abbiamo una norma fondamentale che ha sostituito tutte le costituzioni, che si chiama mercato, legge del mercato, e che sta producendo un impoverimento, per l'appunto, generale, una crescita della disuguaglianza, perché non è diminuita la ricchezza, è cresciuta la disuguaglianza, sono aumentate in maniera enorme le ricchezze e si sono sviluppate sacche di povertà, per l'appunto in contrasto con tutti i principi costituzionali, perché il reddito di cittadinanza, dico subito, non è soltanto un'utopia concreta, è anche un'utopia di diritto positivo. Perché Papi, appunto, elenca le innumerevoli norme costituzionali, a cominciare dalla Costituzione italiana, a cui vorrei aggiungere, fra le varie norme da lui richiamata, quella ricordata da Massimo Severo Giannini più di 40 anni fa, l'articolo 41 della Costituzione, che dice che la Repubblica deve rendere la proprietà accessibile a tutti. Che significa accessibile a tutti? Che tutti devono avere una qualche proprietà per sopravvivere. E poi evidentemente la Carta di Nizza, l'articolo 34, che prevede per l'appunto il diritto alla sussistenza, insieme al diritto alla stabilità del lavoro, perché c'è anche questo nella Carta di Nizza, su questo ritornerò, ma sono per l'appunto norme che sicuramente in Italia, ma direi a livello anche europeo, perché le misure introdotte sono ancora molto al di sotto del necessario, si tratta di norme in gran parte ineffettive. Ecco, a me pare che la indicazione, e qui appunto voglio esprimere un dissenso con Fausta Guerriello, del basic income universale consente oggi di rifondare al tempo stesso la democrazia, lo Stato sociale e anche il lavoro. In altre parole, si tratta di una misura che solo in quanto universale, cioè attribuita a tutti, è compatibile con la logica universalistica dei diritti fondamentali. Cosa sono i diritti fondamentali? Sono i diritti attribuiti a tutti. I diritti, viceversa, condizionati ad una prestazione, sono diritti patrimoniali. Se viceversa affermiamo il carattere fondamentale della sussistenza, e badate che per affermare questo carattere fondamentale ci basta andare alle origini dello Stato moderno, no? Pensiamo ad Hobbes, che teorizzò la necessità dell'artificio giuridico per garantire la vita. La vita evidentemente come diritto di immunità da lesioni, perché la sopravvivenza veniva considerata un fatto naturale, no? Lo ricorda Locke, che dice che dipende dalla volontà di lavorare, tutti possono farlo perché c'è sempre la terra incolta d'America in cui emigrare. E qui ho trovato molto interessante il richiamo che ha fatto Papi a Thomas Paige, che corregge Locke, perché Locke che cosa dice? Dice che Dio ha dato la terra a tutti in maniera indivisa e tuttavia lavorare la terra, coltivarla, significa acquistarne il diritto di proprietà. E tutti possono coltivare la terra perché possono comunque tornare nelle campagne, dalle città, da dove viceversa possono non trovare lavoro qualora vengano espulsi dalle fabbriche, e possono comunque emigrare nelle terre incolte d'America. E Tom Paine viceversa dice no, ma insomma qui c'è un passaggio che evidentemente viene tralasciato, E cioè, sì, la proprietà dipende dal coltivare le terre, ma queste terre come sono state acquisite? Non c'è un dovere di risarcimento dell'appropriazione di questo bene comune che comporta per l'appunto una garanzia di sopravvivenza per chi viceversa non si è appropriato e sostiene per l'appunto la necessità di garantire nel patto di convivenza, nel contratto sociale, il diritto alla sopravvivenza che oggi più che mai, e questo io credo che rispetto al passato è sempre più vero, poi con la crisi economica che abbiamo, sopravvivere non è più un fatto naturale. Forse non lo è mai stato, ma comunque forse era plausibile ai tempi di Locke che si potesse comunque, avendo voglia di lavorare, trovare un lavoro, certamente oggi non è più vero. E quindi la sopravvivenza torna ad essere, diventa una clausola fondamentale del patto di convivenza. E allora il carattere universale di questo diritto, non condizionato a nessuna controprestazione, evidentemente comporta una rifondazione, diciamo, della fiscalità, perché è chiaro che deve essere recuperato con lo strumento fiscale da parte di chi viceversa ha un lavoro, ha dei redditi, e dovrebbe comportare anche un ripensamento di questa progressività. Io mi domando se è coerente con la nostra Costituzione, che prevede appunto il carattere progressivo dell'imposizione fiscale, il fatto che una persona che guadagna 4.000 euro al mese, che è certamente uno stipendio molto elevato, abbia la stessa aliquota di Marchionne o di Berlusconi. No, cioè abbia la stessa aliquota di chi guadagna 100 volte di più, 500 volte di più di un operaio. Sì. Adesso, la progressività, tra l'altro ci sono delle pagine straordinarie, in un aristocratico del Settecento che si chiamava Montesquieu, che richiedeva la progressività delle imposte e faceva della frugalità una condizione del patto di convivenza, sostenendo che non ci devono essere soltanto dei salari minimi, ma anche dei redditi massimi, delle soglie massime oltre le quali si perde la coesione sociale, si perde la solidarietà sociale. Montesquieu fa un attacco durissimo alle ricchezze illimitate, che sono il fattore di distruzione della democrazia, perché la democrazia, dice Montesquieu, equivale ad un minimo di uguaglianza ed è quindi lesa, per così dire, diciamo compromessa non soltanto dalla mancanza di mezzi di sussistenza, che evidentemente fa venir meno non tanto la democrazia quanto le ragioni d'essere dello stesso artificio statale, che nasce proprio a garanzia della vita contro la società selvaggia dello stato di natura, ma anche l'eccessiva ricchezza, che è sempre un fattore di rottura dell'unità, e comunque di quel tanto di unità, di quel tanto di coesione, di solidarietà su cui si fonda una democrazia. E allora il carattere universale di questo diritto, mentre lo rende un diritto fondamentale, perché fondamentali sono solo e tutti i diritti attribuiti a tutti, si distinguono dai diritti patrimoniali perché sono indisponibili, inalienabili, perché sono per l'appunto il fondamento dell'uguaglianza, laddove i diritti patrimoniali sono il fondamento della disuguaglianza, ma soprattutto elimina qualunque connotato caritatevole del reddito di cittadinanza, nel senso che non è un'elemosina, ma è semplicemente la garanzia della vita, della sopravvivenza, un diritto fondamentale che nel momento stesso in cui fosse introdotto cambierebbe il senso comune della cittadinanza, verrebbe considerato una cosa scontata, per l'appunto un diritto, così come verrebbe considerato scontato il fatto che vada restituito da chi abbia un reddito superiore per l'appunto al minimo o quantomeno all'adeguato previsto dal reddito di cittadinanza, e per altro verso eliminerebbe la mediazione burocratica. Adesso non so fare i conti, ma comunque certamente la mediazione burocratica necessaria per accertare le condizioni di vigenza, i sotterfugi, le truffe, le varie forme di clientelismo, di privilegio, eccetera, eccetera, verrebbero soppresse da una misura che certamente è costosa, ma i diritti e la democrazia costano. Perché deve costare soltanto la finanza, domandiamoci? Perché deve costare soltanto il mercato? Ma qual è la ragion d'essere della democrazia? Non è per l'appunto la garanzia dei diritti fondamentali, in altre parole ciò che è identificato come la ragion d'essere nel patto di convivenza costituzionale. E per altro verso possiamo ben dire, e qui mi pare che diceva giustamente Rachele Ferino, che questo costo intanto non è particolarmente rilevante, ma poi è un investimento, non è un costo, come tutti i diritti sociali. I paesi sono ricchi tanto quanto hanno risolto il problema dei minimi vitali. E qual è la ragione della maggiore ricchezza dei nostri paesi rispetto ai paesi più poveri o anche rispetto al nostro passato? Il fatto che c'è l'istruzione, la salute, il fatto che sono... Tant'è vero che c'è un imperverimento e un crollo della ricchezza e dello sviluppo economico nel momento stesso in cui si riducono i livelli di occupazione, i livelli di vita, i livelli di sussistenza. Crolla la domanda, le poche redditi familiari vengono spesi per l'appunto per la salute che non viene prestata in maniera adeguata, si riduce l'istruzione, si riduce la ricerca. I diritti sociali, i diritti fondamentali sono un investimento produttivo, non sono un costo, sono per l'appunto il fattore principale dello sviluppo, la condizione della produttività individuale e quindi della produttività collettiva. C'è dunque un fondamento non solo, diciamo così, filosofico, politico, eccetera, ma anche giuridico, inattuato, leso, e c'è un fondamento, per così dire, sociale e costituzionale nella nostra Costituzione. E qui vorrei fare un ultimo ordine di considerazioni su una questione che a me pare fondamentale perché ha a che fare con le strategie del sindacato. Qui c'è Giovannini che fece 20 anni fa questa battaglia, perdendola all'interno del sindacato, per il reddito, per l'appunto, di cittadinanza. E per altro verso ci sono posizioni che viceversa contrappongono il lavoro precario al lavoro garantito, attaccando il lavoro garantito. Non c'è nessuna opposizione fra difesa delle garanzie dei diritti dei lavoratori garantiti e l'introduzione del reddito di cittadinanza. Questo credo che sia un punto fondamentale. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Che cosa significa? Quale lavoro? Il lavoro coatto, il lavoro servile, il lavoro sfruttato, il lavoro non pagato, il lavoro precario? No, fondato sul lavoro significa che è fondato sul lavoro come frutto dell'autodeterminazione, frutto di una libera scelta che è resa possibile soltanto dalla garanzia della sussistenza, soltanto se non è sottoposto al ricatto appunto della sopravvivenza, per cui si è costretti ad andare a lavorare nei call center per 400 euro al mese, per cui si è costretti ad accettare qualsiasi condizione, qualsiasi sfruttamento. In questo senso l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, significa che è fondata sul lavoro come fattore della libertà e della dignità. In altre parole, il reddito ad un salario di sussistenza, di sopravvivenza, adeguato ovviamente a sopravvivere, non è soltanto un diritto sociale, ma è anche un diritto di libertà, perché è la condizione preliminare della libertà, diciamo, della libertà di autodeterminazione, della libertà di tutti gli altri diritti di libertà. In questo senso è una liberazione del lavoro e non tanto dal lavoro, nel senso che rende il lavoro il frutto di una scelta, naturalmente con tutti i limiti che questa scelta può avere, ma certamente molto maggiore del lavoro coatto che viceversa è inevitabile in caso di mancanza di alternative, cioè la non sussistenza. Allora a me pare che diventa uno strumento di politica economica, io adesso qui non voglio azzardarmi, comunque certamente di politica di rilancio dell'economia, perché rafforza la domanda, perché fornisce appunto i presupposti della sussistenza, ma soprattutto di rifondazione della democrazia, dello Stato sociale e direi del lavoro. Ripeto, non c'è, perché questa è una delle questioni che giocano a sfavore del reddito di cittadinanza in entrambe le dimensioni, perché c'è da parte dei sindacati e nella tradizione marxista, per così dire, la tradizione socialista, comunista, una diffidenza. C'è un'etica del lavoro come solo se il lavoro è un fattore, una condizione della cittadinanza, eccetera. E per altro verso c'è da parte, ricordo quando abbiamo presentato il libro di Ciccarelli Allegri, una polemica contro il lavoro garantito, quasi che le due cose siano in contraddizione. O del lavoro subordinato. Diciamo che viceversa la garanzia del reddito di cittadinanza rafforza l'autonomia contrattuale, la forza contrattuale del lavoratore, che non è costretto ad accettare qualsiasi cosa, che non è posto in condizione di non far causa al datore di lavoro. Perché oggi quasi tutti i contratti di lavoro precario, come contratti a progetto, e poi soprattutto Papi Bronzini, quasi tutti questi sono contratti illegittimi, nel senso che nascondono un lavoro a tempo indeterminato, un lavoro a tempo di carattere subordinato. Chiunque facesse causa per questi, a parte che si vuole eliminare, no, con la clausola compromissoria, anche questo è stato tentato dal governo Berlusconi ed è stato anche realizzato, no? Appunto. Ma chi fa causa al proprio datore di lavoro avendo un contratto di una settimana o di un mese o di sei mesi? Quindi è il metadiritto a tutti gli altri diritti è la stabilità, è la garanzia del lavoro. Ed è una garanzia del lavoro che può essere sorretta soltanto dal fatto che posso fare causa contro chi mi sfrutta, perché comunque il giorno dopo posso ugualmente sopravvivere. Quindi il reddito, il salario, chiamiamolo come voglio, basico, eccetera, eccetera, è una condizione delle garanzie dei diritti dei lavoratori. È la condizione pregiudiziale, in assenza delle quali gli altri diritti non sono esercitabili. E questo a me pare una cosa assolutamente banale e non sono mai riuscito a capire perché c'è questa opposizione. Forse Giovannini ce lo spiegherà, da parte dei sindacati, perché i sindacati intanto non si sindacalizzino i precari e non facciano di questa battaglia una battaglia non a sostegno delle garanzie di chi non ha il lavoro, che questo sarebbe già sufficiente per fare una battaglia, ma a garanzia dello stesso lavoro dipendente, dello stesso lavoro subordinato, come condizione per l'appunto della difesa dei diritti. Soltanto se io sono assicurato per l'appunto nella sussistenza posso difendere i miei diritti. Quindi mi pare, concludendo, che questa possa diventare una battaglia che in questo momento, ma dovrebbe essere però sostenuta quantomeno dai partiti cosiddetti di sinistra e dal sindacato. E cioè, è chiaro, non possiamo pensare che fidarci della bontà della Fornero, che probabilmente lo farebbe se ci fosse una pressione sociale rilevante e soprattutto una pressione politica, una pressione sindacale. Negli incontri sindacali questa dovrebbe essere una richiesta, no? E invece, quindi a me pare che forse ci sarebbe la necessità di coinvolgere in un confronto, di fare un convegno, adesso non lo so, con i sindacalisti, perché questa misura venga portata nel tavolo delle trattative e possa diventare una proposta, come diceva D'Astoli, dell'Italia per l'Europa. Sarà una proposta dell'Italia, non credo soltanto su iniziativa di Monti, ma solo se c'è quantomeno una pressione, se non altro, della sinistra e del sindacato. Grazie. Allora, grazie infinite di questa bella presentazione, ha superato, diciamo, moltissimo la mia aspettativa, perché non solo i discussant sono stati ancora più affettuosi di quanto prevedessi, ma c'è stata questa grande partecipazione e mi sembra anche un acceso dibattito che con tutti voi che avete aspettato fino a questo momento. Vorrei dire questo, adesso ci sono state delle domande specifiche, quindi credo che sia opportuno rispondere, diciamo, brevemente a queste domande, altre invece sono stati veri e propri interventi, quindi magari cercherò di dire qualcosa nel merito, anche riprendendo le cose che hanno detto i miei presentatori. Per quanto riguarda la la sottolineatura di Marco, che ha, come conosco da suo uditore, insomma, il suo sguardo clinico sempre mi rende, diciamo, sempre ammirato, nel senso che ha visto subito il punto debole e ha individuato il problema dei costi. Il problema dei costi, diciamo, e soprattutto ha individuato, diciamo, una risposta a questa vexata question dei costi di un reddito minimo garantito e figuriamoci di un reddito di cittadinanza, in una parte che non ho scritto io direttamente ma che comunque ho pensato di ospitare nel libro, cioè sono gli atti conclusivi, il documento conclusivo del primo meeting nazionale del BIN Italia, quindi non è una parte che direttamente ho costruito io ma che è importante perché comunque cerca di fare un primo assaggio della questione, perché innanzitutto non stiamo parlando in questo momento di un basic income propriamente inteso, se vogliamo anche un reddito di cittadinanza, cioè non stiamo parlando dei costi che servono a finanziare quella misura che pur io propugno e noi come BIN ossessivi propugniamo, il clan degli ossessivi fin dagli anni 70 propugna, cioè uno ius existentiae che spetti a tutti indipendentemente dalla propria condizione reddituale o lavorativa. Stiamo parlando di un reddito minimo garantito che secondo i parametri europei spetta a chi si trova a rischio di esclusione sociale e quindi guadagna un reddito inferiore a una certa cifra, diciamo. Cioè non accede a risorse attraverso il lavoro o a risorse proprie che sono sufficienti a garantirle una vita dignitosa. Ecco. Allora, il problema è come finanziare il reddito minimo garantito, non il basic income. Per questo c'è però un problema preliminare, cioè dobbiamo stabilire, secondo me, lo dico con onestà Marco, lo dobbiamo stabilire collettivamente chi è d'accordo con questa prospettiva, quanto questa misura sia sostitutiva di altre misure e quanto invece si aggiunga a provvidenze che comunque è giusto, razionale ed equo mantenere in vita. Questo è un dibattito che dobbiamo approntare. Certamente, lo dico con chiarezza, le casse integrazioni lunghe di 15 anni appartengono a quelle figure che devono essere sostituite dal reddito di cittadinanza. Il che vuol dire dal reddito minimo garantito? Il che vuol dire che sono tutti costi in meno, perché sì, è una forma che conta anche su un apporto delle, diciamo, parti sociali, però insomma ha anche un notevole contributo, una parte di contributo statale. Un'altra parte che secondo me è, diciamo, una misura che va sostituita con il reddito minimo garantito sono gli scivolamenti pensionistici di 5-10 anni di contributi che vanno, diciamo, costituiscono delle pensioni che naturalmente sono contentissimo che vadano, ai lavoratori della Fiat di Termini Imerese siano stati riconosciuti 8 anni mi pare di scivolo pensionistico e quindi una pensione che comunque avrà una sua dignità, ma certamente questa misura complessivamente considerata rispetto a, per esempio, i giovani che non arriveranno mai a un trattamento pensionistico degno di questo nome o chi non ha mai potuto accedere a un lavoro con queste caratteristiche classiche di essere full time a tempo indeterminato e raggiungere un certo numero di anni non avranno nulla, è una provvidenza iniqua. Quindi anche questo lavoro va fatto. Detto ciò, invece, io in una parte, quando ti leggerai il libro, libro, vedrai, ho più ragionato per assaggi. Ho preso un saggio di Ranci che è uscito nel 2008 in quel bel libro che ha celebrato la famosa commissione Onofri, cioè il documento italiano che in qualche modo mise, anche se la cosa poi abortì, in modo un processo di avvicinamento dell'Italia agli standard europei, perché ricordiamo che l'Italia è il paese che spende meno in un'Europa a 27 per spese, per contrastare l'esclusione sociale, cioè veniamo dopo tutti i paesi, ma non i paesi fondatori o i famosi 15 paesi del 2004, ma veniamo anche dopo i paesi dell'est, arriviamo ben ultimi, perché lo dice, se non vi fidate della nostra ricostruzione di questi dati europei, potete prendere il libro Povera Italia di Marco Revelli, dice che sostanzialmente per spese di contrasto all'esclusione sociale spendiamo circa un quinto di meno della Francia, che pure non è tra i paesi, perché lo sappiamo tutti, sono i paesi scandinavi che sono i più virtuosi in questa materia. Quindi adesso questi calcoli secondo me vanno fatti collettivamente, cercando di avere una discussione condivisa su questi rapporti di sostituzione, però avendo un parametro in mente. Qual è il parametro che dobbiamo avere in mente? Cioè una misura adeguata che fornisca delle risorse adeguate per, come disse la Corte Costituzionale tedesca nella famosa sentenza del 6 febbraio del 2010, che è un po' il faro di questa di una discussione sul reddito di cittadinanza in Europa, per avere una possibilità di piena partecipazione alla vita culturale, politica e sociale del proprio paese. Secondo me un ragionamento che si potrebbe fare è tenere come parametro la legge laziale sul reddito di cittadinanza, cioè quella legge che ha avuto un anno di sperimentazione e che il nuovo governatorato della Polverini non ha avuto ancora il coraggio di abolire, ma ha definanziato, per cui a coloro che guadagnano meno di 8.000 euro annue viene dato un contributo di 500, veniva dato un contributo, poi non l'ha dato concretamente a tutti, ma insomma ci interessa il parametro, veniva dato un contributo di 580 euro mensili, più aiuti in forma di tariffazione sociale, perché questo non mi ricordo assolutamente più chi l'ha detto, questo è un elemento importante, cioè non dobbiamo pensare a un reddito adeguato solo e brutalmente in termini di erogazione monetaria, anche se la parte di erogazione monetaria, a meno che non vogliamo tornare al baratto, è certamente necessaria per condurre una vita dignitosa, ma dobbiamo anche pensare a forme di tariffazione sociale che costano di meno, perché appunto sono a carico in genere degli enti pubblici o comunque di enti governati dalle comunità, da province, regioni eccetera, e quindi hanno un costo vivo minore. Ecco, un reddito di questo genere a livello nazionale cosa comporta? Purtroppo il numero dei poveri in Italia, assumendo questo parametro, è altissimo. Sono circa l'ordine di 8 milioni di persone, quindi occorre fare un discorso di sostituzione, moltiplicare questi 8 milioni per... Sì, certo. Ma lavorano e non lavorano, no, sì. Al di sotto del reddito. Certo. Hanno detto loro. Comunque, quindi questi calcoli vanno fatti in base a questa popolazione. Io credo che le risorse siano certamente più ampie, nonostante gli effetti di sostituzione di quello che si dice a pagina 140, che pure è un primo assaggio, possono essere. E però vedo che da quando si parla di reddito minimo garantito, ha avuto anche una funzione euristica, perché si è visto che attraverso l'esplosione della crisi, ma anche attraverso un governo che comunque, adesso lo dirò da qui un minuto, comunque ha dato una risposta, un'interlocuzione, ha assunto questo tema, magari elementi di questo governo, senza ancora dare concretezza a questa apertura, però insomma è entrato in agenda, si è visto che dei soldi esistono in cassa, solamente che sono veramente pessimamente spesi, non solo, ma non sappiamo neppure, nessuno ha mai ricostruito la razionalità di queste spese, che sono i famosi finanziamenti, diciamo, alle famiglie e all'impresa a pioggia, che pare, Giavazzi diceva sul Corriere della Sera che erano nell'ordine, scusa Giacomo che l'avvocato, comunque parlava di, però in un'ottica positiva, di 40 miliardi di euro, pare invece che siano oltre 100 miliardi di euro, e quindi ci sono ancora dei margini notevoli in cui operare un trasferimento. Ad esempio possiamo pensare che le spese per cui quello che spendiamo in veterinario, no, per il nostro veterinario, viene detratto, siano degli incentivi alle famiglie forse inutili, e che queste spese possono essere invece destinate a sostenere misure che hanno carattere urgente. Quindi io penso che la spesa sia dell'ordine di circa una ventina di miliardi, al quale vanno detratti i costi che possiamo risparmiare, e possiamo tranquillamente ragionare, come ha fatto anche, come stanno facendo le persone, molti studiosi, sulla base della riforma pensionistica, perché la riforma pensionistica, quando sarà a regime, comporterà il risparmio annuale di 20 miliardi. Questi 20 miliardi probabilmente verranno in parte destinati a sottigliare il debito pubblico, però una parte, si è già detto, che dovrebbe essere usata per sostenere il reddito minimo garantito, perché c'è un'implicazione dalla riforma pensionistica al reddito minimo garantito, perché se noi diciamo che la pensione di vecchiaia si alza a 66 anni, dobbiamo però anche garantire qualcosa per chi non ha opportunità di lavoro da qui a 66 anni, visto che fino ad oggi abbiamo consentito alle persone di prepensionarsi molto prima con pensioni di vecchiaia, quindi è, diciamo, un'implicazione logica tra quella. Sì. La formula ammortizzatori sociali. Beh, ancora poi ci arriviamo. Sì, beh, sì, insomma, ecco. L'altra domanda specifica, indubbiamente il volontariato fino ad oggi ha un po', diciamo, coperto questa esplosione di un disagio sociale, diciamo, dirompente. È talmente dirompente che nella preziosissima esperienza del reddito minimo garantito laziale, e lo evoco anche perché su questa esperienza la CGIL Lazio almeno si è schierata con forza e addirittura ha promosso una raccolta di firme, invito a tutti di firmare fino a fine gennaio per impedire che la Polverini cancelli anche, diciamo, il simbolo e la traccia legislativa di questa misura. Dicevo, quando fu lanciata, diciamo, la legge regionale razziale, ci furono ben 130.000 domande di reddito minimo garantito, cioè persone assolutamente sconosciute agli uffici di collocamento, perché erano persone in gran parte sradicati, diciamo, emarginati, per i quali neanche era più concepibile un'ipotesi di lavoro. Tant'è vero che poi la Regione Lazio, quando ha concesso questi benefici, siccome questi benefici, ne ha concessi solo una parte, sono stati finanziati con il Fondo Sociale Europeo, e siccome il Fondo Sociale Europeo obbliga a chi usa le sue risorse a rendersi coerente con le politiche attive del lavoro, gli uffici di collocamento, come si chiamano oggi, hanno dovuto redare dei fantomatici progetti di riciclaggio al lavoro su persone che non lavoravano da 30 anni e per il quale l'orizzonte non contempla una riattività di lavoro, perché ormai purtroppo è più un problema, diciamo, di assistenti sociali che di ufficio di collocamento. Ecco. Il volontariato certamente ha fino ad oggi molto coperto dal punto di vista, però secondo me ci sono stati degli elementi innovativi in cui la richiesta di un reddito minimo garantito invece anche da questi settori cattolici è stato posto sotto un profilo di un nuovo diritto costituzionale sociale, perché il mio libro è edito da Libera, anche insomma già dimostra un'attenzione del mondo cattolico, sia pure diciamo particolare, ma la Caritas ha pubblicato praticamente contemporaneamente al mio un libro che si chiama Reddito di esistenza, in cui la Caritas di Milano cerca di mettere in forma una sperimentazione di reddito minimo con i soldi della curia che in qualche modo sopperisce, chiedendo però una legge nazionale e una legge e soprattutto un intervento dell'Unione Europea. Ecco, rispetto alla domanda di Renato, vabbè, rispondo adesso fra un attimo, cioè secondo me il limite dell'esperienza pur preziosa e pur frutto di quella commissione Onofri che ho già ricordato, che era la legge Turco, che comunque è un'esperienza diciamo pionieristica, è il tentativo di diciamo riavvicinare sia pure gradualmente l'Italia alle esperienze europee con fondi che anche all'epoca erano quelli che sono, e anche vedere, no, quella era sull'immigrazione, era Turco sola, il che si vedeva che aveva diciamo forse un limite che era troppo, adesso come dirò da qui un momento, era troppo sperequata su quest'idea della riattivazione al lavoro, anche se in queste zone diciamo dove pure è stata sperimentata le occasioni di lavoro, è un po' l'obiezione che io faccio alla riproposizione dei modelli dei lavori socialmente utili. Non si può diciamo costruire a tavolino e in modo illuministico delle occasioni di lavoro che diciamolo con chiarezza, la giornata lavorativa sociale a livello mondiale sta diminuendo verticalmente. Chi è ancora diciamo tra di noi, non sono io in modo particolare, però affezionato ai testi marziani, può vedere il famoso frammento sulle macchine, gli effetti che sul lungo periodo la macchinizzazione diciamo progressiva, che poi con internet ha avuto diciamo dei salti, delle mutazioni radicali, è chiaro che la produzione che ricorre a risorse in cui il lavoro umano è sempre una percentuale diciamo sempre inferiore, produce effetti di disoccupazione strutturale e non contingente, non frizionale, che a me non sembra diciamo recuperabile nel medio periodo. Questo non vuol dire assolutamente che non si debbano fare politiche per l'occupazione, che non si debba mettere le persone in condizione di esercitare un proprio contributo diciamo lavorativo, di attività in senso lato alla società, ma certamente l'idea che tutti possano avere un lavoro con certe caratteristiche, con un reddito pieno, a me sembra che non tenga la prova dei fatti. Questo non vuol dire che non abbia ragione Krugman quando dice che gli Stati Uniti e soprattutto l'Europa potranno reagire diciamo al baratro in cui sono cacciati, cercando di alzare disperatamente il livello degli occupati. Certo che ha ragione, ma ciò non vuol dire che non si potrà più arrivare al ripristino di quelle belle architetture in cui tutti erano adusi a lavorare per una giornata, diciamo, 30 anni in una grande azienda, svolgendo le medesime attività, sviluppando la propria professionalità e soprattutto garantendo a se stessi e ai propri familiari un reddito dignitoso. Io non la vedo come condizioni, diciamo, ripristinabile e comunque neppure egemone, perché se la metà dei giovani non trova lavoro e se 9 giovani su 10 riescono a trovare solo attività di natura precaria, non solo in Italia ma in intera Europa, negli Stati Uniti e adesso pare tendenzialmente persino in Oriente e nell'America Latina, ci devono essere delle condizioni profonde che io un tempo diciamo sviluppavo attraverso Marx, adesso possiamo trovare altre strade, ma mi sembra che la natura non cambi. Tre parole, adesso vorrei dire quello che mi ero ripromesso di dire, ma sarò ipersintetico, anche perché tutti hanno trovato, diciamo, i miei discussants mi hanno, diciamo, attribuito questo merito, che adesso non vorrei deludere, cioè di avere cercato di scrivere un libro agile per pietas nei confronti dei lettori e quindi per analogia anche rispetto a voi oggi ascoltatori. Cioè io ho cercato di scrivere un pamphlet in cui, più che un saggio, diciamo, in cui riassumevo i termini del dibattito sul reddito minimo garantito, sul basic income, soprattutto nella sinistra italiana e nella sinistra europea, e ho avuto la convinzione quest'estate, quando l'ho buttato giù di getto, che effettivamente fosse possibile, almeno nella sinistra italiana e con più facilità in quella europea, dire che si era raggiunti un punto di consenso. Il punto di consenso, cioè un, diciamo, un consenso per intersezione, come diceva John Rawls. Naturalmente dal mio un consenso di intersezione non sul basic income, ma sul reddito minimo garantito, che quindi le varie famiglie della sinistra fossero arrivati a non combattersi più con l'idea di sostenere la dignità, garantire la dignità essenziale delle persone. Che cosa mi portava a questa convinzione? Innanzitutto quel bel forum curato da Sergio Mattone sulla rivista di Magistratura Democratica, Questione Giustizia, in cui anche punti di vista molto ostili al reddito di cittadinanza in genere, ai diritti sociali che non si mediano attraverso l'attività di lavoro, come il povero Massimo Roccella, si dichiarava comunque disponibile a mettersi al tavolino per trovare una forma, come dire, di solidarietà più vasta come era il reddito minimo garantito, ma anche la famosa, secondo me, che ci ha colto un po' tutti di stucco, noi diciamo ossessivi del reddito di cittadinanza, autocritica del segretario della FIOM Landini in un dialogo con Gallino sulle pagine di Micromega, in cui il sindacato, che pur più, diciamo, in modo più battagliero si era schierato da sempre contro un'ipotesi di garanzia del reddito al di là dell'attività lavorativa, diceva che effettivamente si doveva, diciamo, comprendere quanto il famoso articolo 18 fosse sì produttivo di effetti, ma con un rapporto di lavoro poi con certe caratteristiche in vigore, mentre nelle oscillazioni dell'attività lavorativa il lavoratore rimaneva totalmente privo di sostegni e che quindi il reddito minimo garantito dal punto di vista funzionale non avesse analogie in questa cosa. Quindi io ero convinto, sono convinto, che effettivamente le scomuniche reciproche sul reddito minimo garantito degli anni 70, degli anni 80 siano terminate, in un certo senso, che si può tranquillamente ragionare su una misura universalistica per i più deboli che raccolga il punto di vista di tutte le famiglie, di tutte le famiglie della sinistra. Naturalmente per noi che siamo il basic income, questo ha un po' il valore che poteva avere il manifesto del Partito Comunista, cioè è una prima misura rispetto a alcune misure che erano, diciamo, di razionalizzazione del capitalismo. La riduzione dell'orario di lavoro non è una misura sovversiva neppure per Marx, però è la base per una tutela del lavoro nelle condizioni all'epoca presente. Bene, dopo che questo libro è uscito, a questo punto sì, secondo me appare una finestra, diciamo, istituzionale per il reddito garantito. Adesso possiamo discutere e possiamo anche verificare da qui a 3 mesi se questa finestra è effettiva o meno, però indubbiamente da Sacconi, che diceva che non darò mai, non regalerò mai un reddito a chi non lavora, alle posizioni della Fornero, siamo in un altro pianeta. Si tratta di prendere sul serio queste aperture e cercare di andare a vedere le carte in gioco, cioè cercare di vedere in concreto le proposte che si possono fare. E secondo me, tenendo presente che certamente ci proporranno delle misure a ribasso, però noi dobbiamo, secondo me, non accettare il necessario pragmatismo che una prima introduzione del reddito minimo in Italia comporta, anche per problemi di conti pubblici che ovviamente esiste, ma mantenere però dei paletti. I paletti quali sono? Che Il reddito minimo garantito è certamente, non è una misura solo, non è una mera misura di ammortizzatore sociale, è un diritto sociale fondamentale, anche se è un nuovo diritto imprescindibile della condizione lavorativa dell'oggi. Cioè, senza un diritto, questo l'hanno detto un po' tutti quelli che hanno preceduto, senza un reddito minimo garantito, il lavoratore contemporaneo, qui e oggi, nelle condizioni di produzione presente, si trova senza una schermatura della propria condizione esistenziale, che senza le quali la propria condizione di lavoro non può che peggiorare, no? L'idea che senza un reddito minimo garantito il lavoratore sia costretto a accettare ogni lavoretto lo rende assolutamente evidente. Però d'altra parte il reddito minimo garantito è anche una misura costituzionale che attiene alla cittadinanza, quindi deriva direttamente il suo nucleo più profondo, tant'è vero che si attribuisce l'idea a John Rawls, no? Cioè all'idea di una società equa, la prima, diciamo, strutturazione di un'idea di minimo sociale, e che quindi è collegato strettamente all'idea di dignità e di piena partecipazione democratica a una collettività politica. Queste due esigenze devono essere rese compatibili, perché come misura per rendere equo e sopportabile il lavoro contemporaneo, chiaramente il reddito minimo garantito, l'hanno già detto soprattutto Fausta, va accompagnato a altre misure generali che fra l'altro sono già previste dalla Carta di Nizza: la formazione permanente e continua, servizi pubblici affidabili di collocamento, servizi di attivazione della persona, interventi statali per garantire studi e attività di formazione, questo l'abbiamo già detto, ma come reddito minimo garantito in quanto prestazione che è diretta a salvaguardare la dignità essenziale della persona non può essere erogato in forme che siano invasive, che siano di etichettamento delle persone che fruiscono di questa come forse probabilmente era un po' la legge Turco. Cioè, se noi aiutiamo i soggetti che sono in difficoltà marcando la loro caratteristica di esclusi dalla società e di esclusi dal mercato del lavoro, di cittadini di serie B, il reddito minimo di cittadinanza produce gli effetti opposti. Ecco. Allora, concludo questo mio lungo dire, anche per l'emozione che chiaramente ho provato oggi in questa così affollata e partecipato confronto, sperando che tutti voi ci aiutiate in qualche modo a far sì che questa finestra, che non so quanto durerà e non so quanto sarà seria, sarà effettiva, comunque produca qualcosa. Cioè produca un reddito minimo garantito, magari riservato solo a alcuni, magari di entità non stratosferica, forse addirittura non adeguata, ma comunque con le caratteristiche di primo assaggio di un reddito per la dignità di tutti.